Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio. Suspend the sitting of the house. This house is now suspended, but please wait here. Londra ormai è a portata di mano, come Bruxelles, come Parigi, come le altre città. Sono i luoghi dove i nostri figli studiano. Noi dobbiamo avere la forza di dire che l'Europa, se vuole fare le cose sul serio, deve mettere più denari sulla sicurezza, sulla polizia, sulla difesa e togliere tutti i vincoli del patto di stabilità dalle spese che servono per proteggere le nostre città e per proteggere la nostra gente. Questa è una cosa che si può fare e speriamo che si faccia presto. Signori, è successo di nuovo un attentato a Londra di cui non si sa granché, almeno sotto il profilo della persona che ha compiuto questo attentato. Non si conosce l'identità, prima si era detto che era un radicalizzato islamico, poi in realtà si è scoperto che questa persona è ancora in carcere, quindi non è lui. Certo, la modalità fa pensare ad altri attacchi simili. La rivendicazione c'è stata dell'ISIS, ma vabbè, la rivendicazione lascia un po' il tempo che trova, bisogna capire davvero chi sia stato costui che ha ucciso 4 persone, ne ha ferite 40, prima travolgendole con una macchina, poi accoltellando soprattutto un agente di polizia davanti al Parlamento dove voleva fare irruzione. Io da tempo dico che purtroppo, mala tempora currunt, dobbiamo un po' abituarci a questa nuova modalità. Ogni tanto colpiranno, d'altronde sono i nostri vicini di casa, gente che cresce e vive con noi, non è che sono tutti identificabili, tutti fermabili, tutti. Se uno prende a un certo punto una macchina e decide di investire delle persone, un coltello, uccidere a caso, che puoi fare? Purtroppo questo è. Signori, questo è 24 mattino, sono le 6:33 minuti. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Peter Bescapè in regia e ci sono 13 gradi e mezzo a Viterbo, come ci dice il nostro Bogdan in questo momento, mentre a Cernusco sul Naviglio 11 gradi, Cuneo non pervenuta. Oh, svegliati Cuneo. Vabbè ragazzi, i gradi sotto le coperte sono banditi, Altissimo 11 gradi, Biella 11 gradi, la mitica Chiara che ci ascolta da Perth, Australia, 23 gradi, 23 a Perth. A Bologna c'è la nebbia, vabbè. A Perugia 14 gradi, cielo coperto e saluti alla redazione da Luca in un giorno un po' triste, beh sì. E poi Rino da Salerno, 11 gradi. Ok, c'è 11 gradi standard in Italia oggi. Eccolo qua, a Denpasar, Bali, il nostro mitico Beppe ci fa sapere in diretta da Denpasar, Bali, che ci sono 30 gradi, 11 ad Ariccia, eccolo lì, e vabbè, e anche a Maciano, 11 gradi. Devo salutare Carla Rocchi, che è con noi, buongiorno Carla Rocchi. Buongiorno Alessandro. Come va? Grazie, bene. Ieri ho letto una notizia, mi è venuta in mente la nostra Carla, giuro, no, adesso ma non voglio subito provocare, su Italia Oggi, in Germania mangiano i castori, però è vietato, quindi si fa in segreto, ecco. Ci sono spero dei... che si strozzino. Vabbè, mi è rimasto un dente che poi c'ha i dentoni, quindi spera che si strozzino. Giustamente la nostra Carla democraticamente dice spero che si strozzino con un bel dentone di castoro che rimanga lì in gola. E quindi no, però non ti abbiamo chiamato per questo, insomma, Carla Rocchi. No, però insomma, e non volevo neanche metterti di cattivo umore. Perdona. Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, insieme al parlamentare che più racchiude quello che il mitico Dijsselbloem ha detto degli italiani, alcol e donne, Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno, io sono quasi a stento, però qua? Buongiorno lo stesso. Ah, però sulle donne. Ormai io non ho più l'età, ma insomma. Vabbè, però io se, come ce l'ho. Se non sbaglio, ha avuto 3 mogli. Sì. Ecco. No, una in corso. Sì, una in corso. una ancora bella. Una in corso è bellissima. Quindi 3 mogli, quindi insomma, le donne hanno un po' prosciugato qualche conticino, ecco, diciamo, no? Sì. Però vabbè. Ma non ho mai litigato con nessuno. No, vabbè, che c'entra. Per il resto, tutto a posto. Sì, come sono andati gli esami che una volta in ospedale? Tutto a posto. Tutto benissimo, grazie. Sì. Gode di ottima salute, ottimo. Sì, direzione. Sì, per toccandosi e per la gioia sì. Dei miei nemici. Va bene, adesso vediamo chi sono. Un sospetto ce l'ho. Direzione Italia, questo è il partito. Sì, caro, sì. Il partito sì. Di Maurizio Bianconi, fondato con Fitto e altri e anche Daniele Capezzone. Massimo Corsaro, esatto, centrodestra, chiaramente. Sì. Allora apriamo il Parlamento, dai. Apriamo il Parlamento, non so. Ma ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Se vogliamo dire qualcosa di Londra, diciamola qualcosa di Londra. Ogni attacco terroristico poi ha le sue immagini, simbolo. Una delle immagini simbolo sicuramente è questo vice ministro degli esteri che tra l'altro ha avuto un fratello morto nell'attentato di Bali nel 2002 e che si è prodigato per cercare di salvare, tentare la respirazione bocca a bocca a questo agente che è rimasto ucciso. Questa è una delle immagini simbolo, ovviamente, non fa un po' specie vedere un vice ministro degli esteri che tra l'altro è un ex militare, quindi evidentemente qualche esperienza sul campo ce l'ha, si è fiondato per cercare di fare qualcosa. Qua Bianconi è d'accordo che è un rischio che purtroppo col quale dobbiamo convivere in questo nuovo mondo. Direi di sì. E che possiamo fare almeno qualcosa, cioè come dice Renzi, adesso usciamo al di là delle polemiche con Renzi, investire sì, tutto sì, in certo, sicurezza, non so, potenziare l'intelligence. È tremendamente complicato, comunque andrebbe sicuramente quantomeno unificate le notizie di intelligence, mentre ognuno se le tiene per sé, secondo un vecchissimo costume deleterio, per cui chi ha le notizie se le tiene sono tutti nemici. Ecco. E questo non va bene. È un po' quello che succede quando si vede nei film americani la competenza è della CIA, sì, no? È dell'FBI, è quello qua. Esatto. Sì, tra l'altro, però di fronte al fatto che alcune persone che conducono una vita normalissima fino al giorno prima, magari sì, voglio dire, si radicalizzano se sono di matrice islamica, però crescono insieme a noi, non è che arrivano, no? No, ma infatti vede, quello che a me fa un po' specie, che poi arrivano tutti i sociologi d'accatto. Bisogna migliorare le condizioni di vita di quello, no? Bisogna curare le periferie, quell'altro, no? Bisogna cacciare. Ma queste sono minchiate. Purtroppo bisogna farci conti come dico io, ci sono dei fenomeni che sono assolutamente non controllabili. Si può fare di tutto per limitarli, ma sì, non li puoi evitare. No, su questo io sono d'accordo. Allora, sono minchiate, lo dico così, quello del bisogna migliorare le condizioni, accoglierli meglio. Allora, io dico sempre, infatti tutti gli operai italiani, tutte le persone che vivono in maniera disagiata nelle periferie, che covano giustamente delle rabbie, no, diventano degli attentatori, no, perché sì, uccidono le persone. La verità è che ci sono purtroppo delle persone che odiano il prossimo, odiano e vogliono ucciderlo, ci sono milioni. E vengono la cosa come vogliono, insomma, esatto, a seconda della moda. Esatto. Carla Rocchi, sai che a Roma, si arrivano tre giorni un po' così, Io infatti ho messo i sacchetti di sabbia sotto la finestra, come dice la canzone. Io abito proprio lì, nel crocevia di tutte le manifestazioni, di tutte le cose, starò a casa, che devo dire? Quello sì, no, anche perché voglio dire, sui giornali adesso si racconta Black Bloc, secondo il giornale la polizia ha avuto l'ordine che non dovrà reagire, cioè il concetto è prenderle e non darle, per dirlo. È una cosa brillantissima, specie per la polizia che se lo sente dire. E saranno condizioni difficili, sono convinta che sarà una giornata tosta, sono convinta che la polizia farà del suo meglio, perché poi non è che sono dei... avranno tutti la testa sulle spalle, ma quello di dare queste raccomandazioni generiche prima della... cioè, altro non si può dire, non è che si può dire polizia, manganella, chiunque, anche la vecchietta del secondo piano, però che sia una giornata, forse qualche volta tacere. Nessuno sa come sarà questa giornata, la vedremo. No, e poi esatto, questo rincorrere a dire saranno i Black Bloc, eccetera, vediamo. Però questo, insomma, vediamo. Questa cosa anche di Londra è tutta un po' da chiarire, intanto da capire la identità di questa persona, ma io voglio tornare un po' a bomba sulla questione politica. Allora, ieri è stata una giornata politica, come dire, di quelle vibranti, di quelle in cui uno si accorge che c'è il Parlamento. Ah, che bello! Il Parlamento che... Dai, Bianconi, anche lei ieri era lì. Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna. Bianconi, lei non canta. Canti adesso qui. Vergogna, vergogna. No, Bianconi no. Sono del 5 Stelle. Lo dicevano per loro stessi. Hanno fatto una cosa... Sono quelli del 5 Stelle, ricordiamo. Sì, hanno fatto una cosa... c'è stato l'estrema sinistra... Mi pare Mirella, sì, ha fatto un bellissimo discorso, ha poi fatto un po' di confusione che le sto per dire, sì, ma non possono loro togliere il diritto di parola ai colleghi durante il question time. Non è mai successo in tutti questi anni. Allora, raccontiamo. Ieri è passata una mozione presentata a sorpresa, peraltro. Lei conferma che è stata presentata all'ultimo, di Marina Sereno? No, c'era una l'ufficio di presidenza doveva... mettere mano a quelli che vengono chiamati vitalizi, che come lei sa, per noi ora che ci siamo non ci sono più perché abbiamo il contributivo, per quelli passati, sì, e ha determinato dei tagli, che quelli dei al di sopra di una cifra pagano il 40%, sì, ha determinato delle riduzioni per un, diciamo, delle tasse di solidarietà, mettiamole così, tasse di solidarietà. Quindi ha comunque preso una posizione, lo so, ma il 5 Stelle voleva una roba di più. Non so cosa volesse, la fucilazione, non lo so. C'è modo, insomma. E quel modo è stato definito fascista, perché ha tolto da questo Mirella, che ha però detto delle cose giuste, che ha tolto la possibilità di parlare ai colleghi in questo time. Loro vogliono, 5 Stelle, che tutti i parlamentari, anche quelli pregressi, si passi, insomma, al sistema come quello per tutti gli italiani. È giuridicamente sbagliato. Quindi hanno trovato questa soluzione. Hanno fatto irruzione. Non si fa così. Hanno fatto irruzione. Io non mi sono alzato perché non era il caso. Ma infatti è strano, Bianconi. Ma di solito non ha detto niente, Bianconi. Di solito in quei momenti Bianconi... No, perché guardi, è una cosa che offende. Io sono un istituzionalista fissato. Quando ero consigliere comunale fascista, come dicevano loro, del Movimento Sociale, nel 1970, tutte le volte che in consiglio comunale a una città mi alzavo, i comunisti incominciavano a fare il casino che facevano i 5 Stelle e non mi facevano parlare. Allora gli volevo dire a Mirella che in realtà i fascisti in Italia, come diceva giustamente Fraiano, si vedono in due grandissime categorie, i fascisti e gli antifascisti. E non c'è niente da fare, c'è il desiderio di sopraffazione che non ha. No, ho capito, realtà, ma ieri, ma neanche un vaffan. Niente, no, non è scappato, no, niente. Non è il caso, perché cioè Bianconi ieri è stato seduto di fronte in questi momenti concitati. Non ci credo, ero talmente indignato che sono stato seduto una volta, tanto ero senza parole di fronte a questa questa offesa generale proprio alla libertà. Ma allora parole. Vediamo un po', perché Carla Rocchi, no, aspetta un attimo Bianconi, dopo ce la dice questa di Battista, sì. Dopo il traffico, però vorrei capire un attimo da Carla Rocchi, perché Carla Rocchi è stata in Parlamento, quindi ha un quello che si chiama un vitalizio, no? Questa cosa ti tocca, ti incide, non lo so, vorrei capire. Guarda, posso dire? Sì. Siccome io non lo uso per me, quando ci sarà un cambiamento io mi adeguerò, farò qualcosa in più, troverò una risorsa in più, e comunque non riguarda me naturalmente la cosa, questa cosa non è personalizzata, questa cosa è generalizzata. Sì. Quello che verrà fuori da questo Parlamento o dal prossimo sarà una cosa che sarà accettata da chi si trovi in qualunque condizione. Io non sono mai allarmata o allarmistica in nessuna delle cose, ci si adatta a quello che succede, si trovano risorse, non si trovano, trovo che in tutto questo ci sia la metà di, come posso dire, di vendicazione, chiamiamola etica o morale o moralistica, la metà è propaganda. È propaganda. Allora facciamo così, andiamo al traffico, poi rientriamo, sì. Sentiamo Luigi Di Maio e Bianconi ci dice è andato da Di Battista, non ci voglio vedere, voglio sapere tutto di questo faccia a faccia tra Bianconi e Di Battista, tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... A tutti quelli che criticano le scelte di Grillo vorrei dire è meno male che sbaglia tutto e i 5 Stelle sono al 32%, se non sbagliava niente stavano al 97%. Scusate, ma com'è che non si parla più della legge elettorale? Che cosa è successo? Milan, ti ascolto da anni e apprezzo assolutamente la tua professionalità e la tua trasmissione, però con Bob Marley ce l'hai fatto a fette, mamma mia ragazzi come sei antico. Hai passato un po' troppo tempo alla tua gioventù al Parco Lambro. Al Parco Lambro ti sei scatenato da sbarbato. Poche ore fa si è votata qui alla Camera dei Deputati un'altra delibera vergognosa che grida giustizia. Gli avevamo chiesto, siccome in questo paese un cittadino normale ha bisogno di 43 anni di contributi per andare in pensione, è indecente che un parlamentare abbia bisogno solo di 4 anni e 6 mesi per andare in pensione. Capito Bianconi? È un cretino, che gli devo dire? È un cretino. Vabbè, no, è solo un grande cretino, è proprio è ruvido da un punto di vista culturale, non sembra. Ma è proprio ruvido. Comunque Di Battista. Ma non siete deputati a governare il paese, perché quest'altra volta vincerete e governerete, dico. Sì. Ma non ti vergogni. Io mi vergognerò anche, ma intanto noi si cresce. Con queste cose noi si cresce. È vero, si cresce. Questa è la versione di Bianconi, non abbiamo no, qui Di Battista. Ma c'era solo, c'era lì 4, 5, 6, 7 parlamentari che mi hanno guardato e hanno detto è così. Vabbè, in tutto questo non solo crescono, ma è interessante questa cosa, ma l'avete visto Bersani? Ma che è successo a Bersani che da un giorno ha detto, a parte le metafore di Bersani, le sardine, le robe, io non ne ho mai capita una. Carla Rocchi, hai capito che vuol dire smacchiare il giaguaro? I giaguari, ecco qua abbiamo la Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, i giaguari si smacchiano? Ma figuriamoci, il giaguaro sta bene con me, ma Bersani è troppo simpatico, non dirò mai niente contro di lui. No, ma lo so, ma dai. La verità è che lui parla il di cose, tacchino è sul tetto, delle cose inutili, smacchiare il giaguaro, pettinare le bambole. La serie, ovviamente, la cosa, c'era quella il tacchino sul tetto, per mesi l'ho messa in sigla, il tacchino, c'era un tacchino sul tetto. Sì, c'è la mucca in corridoio. Insomma, a parte che questo è un grande animalista. Esatto. Dunque, lui ha un repertorio fantastico per dire che lui non sta facendo cose inutili. Io spero che quello sia vuol così, dire, quello vuol dire. Che non sta facendo cose che ma avete visto che dice: guarda, al 5 Stelle oggi anche Enrico Letta fa un'intervista al Corriere della Sera. Enrico, stai sereno, Letta, dicendo che ha ragione Bersani, no, non si può definirli appestati, populisti, il 30% degli italiani o più guarda loro e quindi che non è che decidono loro, che non lo so, non guarderanno nessuno. Perché questo è uno ma se non hanno il 40% dovranno appunto, guardare qualcuno. Ma non hanno bisogno di guardare nessuno. Ma perché? Ma Renzi, quando aveva preso il 40% all'Europea, avrebbe guardato qualcuno? No, ma con questa legge elettorale, Bianconi ce lo insegna, al 32%, anche se arrivano al 36%, con qualcuno, se vogliono governare, dovranno fare il governo. Ma io sono convinta che se non arrivano al 40%... Fatelo con Direzione Italia! Perché... Fatelo con Direzione Italia! Guardi che i grillini quest'altra volta saranno al 40% abbondanti. Vabbè, e questo e prenderanno il premio di maggioranza se rimane questa legge, perché meno sarà la gente che va a votare e più la loro percentuale sta vicina. Ma se non fosse così, cosa facciamo? C'è la paralisi? Oppure io sono mica il mago no, Telma. Appunto dico, se lo vede Bersani al governo con i grillini, questo è dico. Io sì, lo vedo. Lo vedo, io guardo in Bersani una grande simpatia perché è una gran persona per bene. Il suo modo di parlare per me, a me piace, smacchiare già qua vuol dire renderlo inoffensivo, non vuol dire far così, è pettinare le bambole che vuol dire far così. Smacchiare il giaguaro? E vuol dire rendere Berlusconi inoffensivo, okay. No? La mucca in corridoio, inoffensivo, ma purtroppo non c'è. E la mucca in corridoio? E la mucca in corridoio è come il maiale in poltrona, cioè uno che non... cioè non ti accorgi che hai un problema... Ah no, non è che non ti accorgi che c'è un problema in casa. La mucca che c'hai uno che sta in un posto disadatto che non è il suo. Il maiale in poltrona è quello. Capito? Cioè potremmo nominarlo nostro interprete delle metafore di Bersani. Perché ha un linguaggio molto... molto domestico, di società antica, a me mi piace da molto. Ha detto anche ieri sono uno di uova e di latte. Vuol dire che è uno che è, come posso dire, si adatta è abbastanza genuino. Ecco. Forse si adatta a tutto. Sono gli ingredienti delle tagliatelle, ragazzi miei. Esatto. Ha parlato anche di sardine, le uova, lo sperma, giuro. Non piace niente. Io tutto però, quello non ho sentito, ma quando lo sento io lo capisco. Dice, cioè, ha creato un'offerta politica che in Italia forse un pochino manca, perché... Quando non si è capito che Renzi, come posso dire, può vincere tutto quello che vuole, ma è politicamente finito, perché il 60% degli italiani gli ha detto che gli sta sui coglioni, non c'è niente da fare. Lui la sua scommessa politica per adesso l'ha persa. Comunque, Mara ci scrive: Bianconi sta prendendo punti e quindi altri voti a Direzione Italia. Invece c'è chi nel suo linguaggio è sempre un po' criptico. E allora vogliamo ripristinare la mitica figura dello psicologo di D'Alema. Allora, D'Alema tra l'altro ha detto che vuole arrivare al 51%. Io questa cosa, i politici fanno fatica a capire che basta dire il 50% più un voto. Il 51 non è non è la maggioranza, è il 50% più un voto, che in matematica è una cosa un po' diversa dal 51%. Ma vabbè, sorvoliamo D'Alema. Meglio con i 5 Stelle che con Renzi. L'ideale sarebbe da soli, pensi che bello, mandessimo il 51% dei voti. D'Alema, mi scusi, possiamo rubarle un minuto? Lei entrando ha dichiarato che le piacerebbe raggiungere il 51%. Perfetto, sì. I sondaggi però per ora la danno al MDP al 3%. È un buon punto di partenza, ricomincio da 3. Ricomincio da 3. Allora, Carrarocchi, torniamo alla solita analisi, perché ogni volta ci sono sfumature diverse. Qual è il problema, se ne ha, o la diagnosi del caso D'Alema, Rocchi? D'Alema è una persona che non riesce a stare, che ne dica, a me sta a simpatico anche lui, che ci posso fare? Io vedo il mondo colorato in rosa, ma non posso credere che un uomo che è stato per tutto questo tempo in politica si accontenti della fondazione, si accontenti del vino. A lui piace stare nelle cose, che ci sia al 3, che ci sia al 30 o al 300, per cui è molto importante essere nelle cose, parlare. Possiamo dire, dottoressa Rocchi, la sindrome dal presenzialista. Scusi, Sergio, non è che si sta per tanti anni. Vedo che in Parlamento anche le persone che ci sono state per un periodo più o meno lungo non si distaccano mai ma infatti è una sindrome buona. Bianconi, che ne ha date già di diagnosi sul caso. Sì. Lui ha già finito il suo compito, ha sfasciato ogni cosa, quindi lui è già contento. Poi il 30 gli importa una sega. Vabbè, è una sindrome un po' così, un sindrome da distruttore. Se mi fanno qualcosa che si mettono insieme, si mette lì e sfascia tutto. Va bene, la sindrome da distruttore. Ecco, possiamo fare la distruzione. Ecco, e lo sfascia carrozze. La sindrome dello sfascia carrozze. Bella, non è male. Allora io ringrazio Maurizio Bianconi, direzione Italia, e Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. E ricordate, se mangiate un castoro, che vi strozziate con i vostri, con i suoi del castoro denti. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. All'inmila e lì gestisci una lanciano di chiamia 24 mattino. Signori, sono le 7:19 minuti, questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Allora siamo qui ovviamente a raccontare quello che c'è sui giornali. Ovviamente l'attentato di Londra è la notizia principale. Andiamo a sfogliarli, Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Oggi mica tanto, a cominciare ovviamente dal titolo principale per molti quotidiani in questo giovedì 23 marzo. Intanto apriamo con il Corriere della Sera: Londra, attacco al Parlamento. Mentre Repubblica, attacco al cuore di Londra. La Stampa, Jihad, attacco a Londra. Per il Fatto Quotidiano, Londra, morte al Parlamento. Il Messaggero, strage annunciata, smacco agli 007. Questo è un titolo un po' diverso che mi interesserà approfondire tra poco, perché certo è particolare. Per il Giornale, l'Islam ci rifà la festa. Certo, bisogna capire, in realtà non si sa neanche bene l'identità dell'assassino di questo attentatore, ma la rivendicazione dell'ISIS c'è stata. Per il Manifesto, nel cuore di Londra. Mentre Avvenire, la democrazia nel mirino. Le aperture di altro tipo, il Sole 24 Ore, anche se ha un ampio risalto in prima pagina anche l'attacco a Londra. Effetto tassi, giù di 20 miliardi gli interessi sul debito pubblico. Ma cominciamo a raccontare, a partire dalla cronaca, quello che è successo. Ovviamente ogni quotidiano ha il suo racconto. Sono a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, Luigi Ippolito. C'è da dire che, tra l'altro, come in tutte queste occasioni, Bruxelles, Berlino, Nizza, raccontano molto anche le fotografie. Ce ne sono due in particolare, una di una donna che cerca disperatamente di aiutare una persona, probabilmente una delle persone ferite. Ricordiamo, 4 morti e 40 feriti. Tra questi 40 feriti ci sono anche due italiane. E poi l'altra foto è la foto che vede quello che è già stato definito l'eroe in Gran Bretagna, il vice ministro degli esteri, che tra l'altro è un ex militare, ha avuto un fratello ucciso in un attentato a Bali nel 2002 e che si prodiga per cercare di salvare la gente accoltellato davanti al Parlamento, inutilmente, perché poi morirà questo agente, ma fa anche la respirazione bocca a bocca. Il vice ministro degli esteri è diventato in qualche modo colui che si è svestito dai panni del politico per fare il soccorritore, ed è considerato appunto in questo caso l'eroe. Ogni strage purtroppo ha anche questi eroi che vengono eletti, spesso anche grazie a immagini che finiscono sui giornali. Comunque, dicevamo, la cronaca: l'attacco al cuore della democrazia britannica. Il Parlamento di Westminster ha vissuto ieri una giornata di guerra dopo che un terrorista ha falciato la folla a bordo di un'auto e poi si è scagliato contro i poliziotti armato di coltello prima di essere abbattuto dagli agenti di guardia. 3 persone morte investite, un poliziotto rimasto ucciso dalle coltellate, almeno 40 i feriti. E poi tra i morti c'è da contare anche l'attentatore che è stato ucciso da un agente a colpi di pistola. Tutto è cominciato poco prima delle tre, quando un'auto si è lanciata a tutta velocità sulla folla che passeggiava come ogni pomeriggio sul ponte di Westminster, quello che collega la ruota di Londra col Big Ben. L'attentatore ha concluso la sua corsa schiantandosi contro la cancellata del Parlamento, uscito dall'auto, è entrato di corsa nell'area recintata, ha coltellato a morte un poliziotto, poi ha tentato di colpirne un altro, ma è stato abbattuto con diversi colpi. Fin qui la tragica e fredda cronaca. Chi è questa persona? All'inizio si era sparsa la voce dicendo che il killer fosse un giamaicano di nascita, poi convertitosi, radicalizzatosi, che ora si faceva chiamare Abu Izzadin, all'anagrafe Trevor Brooks, britannico di origine giamaicana, ma il suo avvocato poi ha fatto sapere no, è in carcere, lui non c'entra nulla, e difatti così è. E allora tutti si chiedono chi sia questo attentatore, che viene anche ripreso nelle foto, carnagione scura, barba, però al momento non si sa molto di lui. C'è la rivendicazione dell'ISIS, ci sono anche le testimonianze, come la testimonianza dell'ex campione di pugilato Maurizio Stecca, che era proprio lì e al giorno, dice, intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport, ho visto la gente ammazzato davanti a me, l'ha coltellato, l'ha colpito finché non è caduto a terra. Li ho visti morire davanti agli occhi, l'attentatore e prima ovviamente il poliziotto accoltellato. Eravamo a 10 metri di distanza. Ho visto colpire la gente, poi si è messa a correre verso di noi. Eravamo paralizzati, era una scena allucinante come un film. A quel punto è arrivato un agente in borghese chiamato dal collega del poliziotto ucciso, è uscito da una porta laterale e gli ha sparato tre colpi a due passi da noi. Così, intervistato da Mario Gradara, racconta da testimone l'ex campione di pugilato Maurizio Stecca, che era lì proprio in delegazione al Parlamento. Ecco, non si sa molto di chi sia questo attentatore, anche se la modalità fa pensare ad attacchi simili. Jason Bourke, fra i più grandi esperti di jihadismo, In un articolo che viene pubblicato oggi, tradotto e viene pubblicato da Repubblica, pagina 5, racconta della ormai nefasta, non profezia, ma il nefasto invito di Adnani, uno dei capi dell'ISIS, che fu molto esplicito nel 2014, Mohammed al-Adnani, responsabile dell'operazione internazionale dello Stato Islamico, quando disse: se non riuscite a trovare una bomba o munizioni, fracassate la testa dell'infedele con una pietra, sgozzatelo con un coltello, investitelo con la vostra automobile, scaraventatelo giù dall'alto, soffocatelo o avvelenatelo. Ecco che da allora si sono ripetuti attentati con questi tipi di modalità. L'uso dei veicoli, a Nizza quello più tragico, l'uso dei coltelli in questo caso, e allora si pensa proprio a questo. Oh, perché dicevo però il messaggero che colpisce? Perché il messaggero ha questo titolo in prima pagina: smacco agli 007, strage annunciata. È bufera sui servizi. Questo retroscena di pagina 4, a firma Cristina Marconi, racconta un fatto inquietante, cioè in rete c'erano tracce di un annuncio dell'attentato di ieri. Sul forum 4chan qualcuno ha indicato attraverso uno strano codice le coordinate esatte in cui sarebbe avvenuto e ha postato una foto di due pistole pur senza fare riferimento alla natura o alla data dell'incidente. Se quello degli 007 può essere visto come un fallimento, la reazione però eroica delle forze dell'ordine sul posto è stata elogiata da tutti, ha regalato una delle poche ragioni di sollievo in una giornata nera. Oltre alla gente morta in servizio, altri tre sono stati feriti. E dunque, tra l'altro, pochi giorni fa c'era stata proprio una esercitazione a Westminster, come si fanno in questi casi, d'altronde l'allerta è sempre altissima. Ed ecco che allora ci si chiede poteva essere evitato, la classica domanda che si fa sempre, certo con un maggiore intelligence si può evitare tutto, ma non sempre è facile. Spostiamoci da quello che succede in Gran Bretagna, succede a Londra, e ovviamente tutto ciò ha dei riflessi su quello che succederà a Roma nei prossimi tre giorni. Jihad e Black Bloc, sabato a Roma una doppia allerta, agenti a rischio. Fiorenza Sarzanini racconta, pagina 9 del Corriere della Sera, la scelta del ministro dell'Interno Minniti di convocare d'urgenza il comitato di analisi strategica. Tutto ciò rende bene l'idea di quale sia il livello di allerta in tutta Italia, perché l'attentato di Londra aumenta l'intensità del rischio in vista delle manifestazioni contro le celebrazioni dei trattati organizzate per sabato a Roma. C'è la minaccia degli antagonisti, i cosiddetti Black Bloc, ovviamente ora c'è un doppio fronte, il fronte dei jihadisti, perché quanto accaduto in Gran Bretagna sembra ricalcare un copione che ormai da mesi segna le azioni terroristiche delle città europee. E dunque c'è massima allerta, come si dice con questi slogan, secondo tra l'altro Chiara Giannini sul Giornale. Oltre all'allerta massima c'è un ordine dato agli agenti di polizia, che insomma io non capisco neanche che senso abbia metterlo e spiattellarlo così sui giornali. Agenti, non reagite. L'ordine sarebbe stato quello di prenderle e non darle. Insomma, le forze dell'ordine non potranno reagire più di tanto agli attacchi delle frange violente che potrebbero mascherarsi in mezzo ai manifestanti che sabato prenderanno parte ai cortei di protesta in occasione del sessantennale dei trattati di Roma. Questo secondo Chiara Giannini sul Giornale. Vabbè, signori, come dire, l'articolo da Mani sul volante oggi è sospeso perché, come dire, sono tutti articoli che ci fanno abbastanza arrabbiare, mettiamola così. Dai, andiamo in pubblicità e rientriamo tra un attimo. State ascoltando un programma offerto da Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro. Vai su aruba.it. Alessandro Milan, l'antidepressivo dell'informazione. Oh, dai, dai, questa mi piace. Allora, alle 7:33 minuti e continuiamo nella lettura dei quotidiani dopo la vicenda di Londra. Vediamo di concentrarci su quello che è successo invece ieri nella giornata politica. Alla Camera è stata una giornata di quelle vibranti, mettiamola così. Perché? Allora, Manuela Perrone e Mariolina Sesto raccontano bene la cronaca sul Sole 24 Ore, pagina 12. Il tema è quello dei vitalizi, il taglio dei vitalizi. È successo che è passata una mozione presentata a sorpresa da Marina Sereni del Partito Democratico per introdurre un contributo di solidarietà nel prossimo triennio sugli assegni vitalizi e sui trattamenti previdenziali. Insomma, un qualche taglio. Ma quelli del Movimento 5 Stelle volevano invece far passare la delibera per equiparare le pensioni dei parlamentari a quelle dei cittadini. Invece questa delibera è stata bocciata. È vero che sono passati dei tagli e quindi questo contributo di solidarietà, ma cosa è successo? Che quelli del Movimento 5 Stelle hanno inscenato una bagarre incredibile, con tanto di irruzione, dopo aver detto vergogna, vergogna, un'irruzione nell'ufficio della presidenza. Da lì la questione ovviamente è degenerata, colpa vostra, colpa vostra. Il classico rimpallo di responsabilità. Sulla stampa c'è proprio la foto della protesta dei grillini che si sposta al primo piano del palazzo, dove si riunisce l'ufficio di presidenza. Alcuni esponenti tentano l'irruzione nella sala e ovviamente ora è il grido di colpa vostra e vergogna, no, abbiamo fatto bene. Ecco qui per esempio Marina Sereni, Partito Democratico, colei che ha portato la proposta di tagli accettata. Abbiamo assistito, dice Repubblica, a una scena inquietante mai vista. La stanza dell'ufficio di presidenza dove eravamo riuniti aperta con la forza da decine di deputati del movimento, una situazione violenta, davvero brutta, scene mai viste. E poi veniamo al punto, loro volevano cancellare i vitalizi che non esistono più dal 2012, quando sono stati già trasformati in pensioni col sistema contributivo. Noi al contrario abbiamo fatto quello che non era mai avvenuto, abbiamo messo mano a diritti acquisiti e abbiamo ricavato risparmi per 2.400.000 euro. Risponde a fianco, intervistato da Matteo Pucciarelli, Massimo De Rosa, che è l'unico del Movimento 5 Stelle che è riuscito a entrare con tanto di irruzione nell'ufficio di presidenza, battibeccando con la presidente della Camera Boldrini. E che vi siete detti? Lei si è alterata molto vedendo la nostra protesta. Dice che non siamo rispettosi delle istituzioni. E lei che le ha risposto? Che semmai è lei a non rispettarle, di fatto coprendo una grossa presa in giro. Poi e poi mi hanno portato via. Ma questa bagarre esattamente perché? Allora, spiega il deputato Grillino, non era in calendario di parlare oggi di vitalizi e pensioni. Alla voce comunicazioni del presidente hanno presentato una proposta di Marina Sereni che taglia una quota ridicola di questi vitalizi. Rispetto alla nostra proposta si continueranno a spendere 211 milioni e 600 mila euro l'anno in più e fra 3 anni saremo punto a capo, visto che il taglio è a tempo. Noi vogliamo togliere del tutto i vitalizi, ma questa maggioranza ha fatto una specie di blitz nel giorno in cui i cittadini sono in piazza a protestare, forse per farsi un po' di pubblicità. Vabbè, queste sono le due versioni, mettetele a confronto, pensate come volete. La bagarre dei vitalizi. C'è anche l'intervista sulla stampa a Clemente Mastella che dice: prendo 6.500 euro al mese, ho pagato tanto, che c'è di male? E sui grillini, sul Movimento 5 Stelle, dice Mastella: bisogna fare come faccio io con loro, sputtanarli ogni qualvolta dicono idiozie. Di certo c'è che se resistono i numeri dei sondaggi diffusi in questi giorni, urge un comitato di liberazione nazionale di salute pubblica per salvare il paese. Il timore di Mastella evidentemente è i 5 Stelle. I 5 Stelle al potere e lui dice ci vuole un comitato di liberazione e di salute pubblica. Va bene. In tutto la notizia politica che da 2 giorni è forse più interessante riguardo al Movimento 5 Stelle è il fatto che Pierluigi Bersani abbia detto che si può e si deve dialogare con loro perché sono il centro. E Bersani oggi lo conferma in un'intervista su Il Messaggero, intervistato da Emilio Pucci, ribadisce, eccolo qua, Grillo è il centro, giusto dialogarci. Renzi prepara l'accordo con la destra. Sono tutte politiche di posizionamento, per carità. Beh, certo, se uno guarda il giornale c'è questa situazione attribuita a Berlusconi. Berlusconi vuol tornare al potere o con il centrodestra, se si unisce con Salvini, la Meloni e chissà addirittura Alfano, o col centrosinistra, col PD. Ecco allora che Bersani dice, vedete, Renzi punta al centrodestra. Bersani dunque apre ai grillini. Secondo Repubblica con Annalisa Cuzzocrea, pagina 13, in realtà i grillini guardano semmai di più a Salvini e Meloni perché potrebbero garantire quel 12-15% che mancherebbe loro in virtù di un 32% di arrivare al 40% e governare. Insomma è un gran casino. Lo stesso Enrico Letta, intervistato dal Corriere della Sera per parlare del suo ultimo libro Contro venti e maree, idee sull'Europa che verrà, in realtà Enrico Letta parla di politica. Intervistato da Federico Fubini, dice: capisco Pierluigi Bersani, ormai il 30% degli elettori guarda al Movimento 5 Stelle e quindi con quegli elettori bisogna parlare, non ci si può limitare a dire che sono dei populisti, che sono degli appestati, non si può puntare solo a escluderli, radicalizzandoli ancora di più, così si finisce solo per alimentare le frange di coloro che si sentono esclusi. Interpreto quel che dice Pierluigi in quest'ottica. E dunque anche Enrico Letta guarda al 5 Stelle e agli elettori del 5 Stelle. Insomma, tutti che guardano a tutti. E Renzi dove guarda? Secondo la stampa, Francesca Schianchi, la campagna di Renzi per le primarie sarà una campagna in chiave anti-Unione Europea. I rimproveri a un'Europa in difficoltà, gli slanci per cambiarla. Tutto questo datano da tempo, da quando era ancora premier e invitava Merkel e Hollande su una portaerei a Ventotene. E poi, dopo qualche settimana, rompeva il vertice di Bratislava nel documento comune su migranti e crescita. da candidato segretario del PD, Renzi continuerà questa linea. Contro l'Europa, la sua burocrazia, l'austerity soffocante, il sogno di un'unione felice ancora da acciuffare. Questi diventeranno i temi centrali. E si è già visto con la richiesta di dimissioni di Dijsselbloem, quello che ha detto che al sud d'Europa gli stati spendono tutto in alcol e donne. Ecco, lo stato dell'Unione è l'argomento, racconta la stampa, su cui imperniare la campagna congressuale per Matteo Renzi. In tutto questo, signori, siamo un paese di bamboccioni. Questo lo sapevamo, lo sappiamo. Bamboccioni per forza. C'è questa analisi, uno studio della Fondazione Visentini presentato ieri all'Università Luis di Roma, secondo il quale la indipendenza, l'autonomia economica dei nostri, non si può neanche dire giovani, perché dei nostri signori e delle nostre signore, degli italiani, arriva a 40 anni. Il futuro vietato ai giovani italiani. Che ti propone il giornale? Un'intervista a Flavio Briatore. Sentite Flavio Briatore intervistato da Paolo Bracalini, che analisi fa riguardo a questa vicenda. Risponde da Dubai, è lì a inaugurare alcune cose legate al billionaire. Il problema dei ragazzi, questo Briatore, il problema dei ragazzi italiani è sempre uno, dice Briatore, che i ragazzi in Italia vogliono assolutamente fare l'università, assolutamente laurearsi, vogliono assolutamente essere disoccupati. Questo è quello che vogliono essere, dei disoccupati ma con la laurea, invece di essere occupati facendo lavori manuali. Io non dico che i giovani non debbano studiare, dico però che se uno inizia a fare l'idraulico a 18 anni, magari dopo 10 anni può avere 40 negozi, può diventare ricco partendo anche da zero, cercare dei lavori dove pensano che ci sia una nicchia di sviluppo, il falegname, il cameriere, il cuoco, l'idraulico, tutto quello che è manuale rende molti soldi. Ma capisco che la parola ricco in Italia sembra quasi una parolaccia. E ancora insiste Briatore in un'analisi che io dico non è sbagliatissima. Solo a Milano ci sono 7.000 avvocati, come in tutta la Francia, perché è considerato un lavoro figo, mentre il cameriere no. Però poi vai a vedere quanto guadagna un giovane avvocato, vedi che prende una miseria, mentre ci sono camerieri che guadagnano più di commercialisti, più di avvocati, 5-6.000 euro. Noi a Dubai, a Monte Carlo, li paghiamo almeno 2.000 euro netti e spesso gli paghiamo anche la casa. Prenda il cuoco, una volta l'immagine del cuoco era un tizio sudato, ubriaco, chiuso in cucina la sera, poi arriva Masterchef e adesso i cuochi sono fighi, biondi. Bello, mi piace questa immagine, figo e biondo. Ti piace, Peter? A me piace questa immagine, figo e biondo. Bravo Flavio Briatore, figo e biondo. E a proposito invece di un meridionale scuro, Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, bisogna precisare che purtroppo sono padano. Però... Meridionale Sud Europa, insomma. Scuro, meridionale europeo. Questo, sì, tu sei incarni sì. L'italiano, pizza, mandolino, donne, alcol, belle macchine, laureato, non disoccupato, ma fortunatamente. Non lo so, ecco, non vorrei cominciare a fare degli scongiuri, no, però. No, dai. Fermiamoci qui. Palestrato! Ti vorrei segnalare che sul Sole 24 Ore di oggi, caro Alessandro, sì, ci sono delle indicazioni su come battere l'evasione IVA. Ah. Perché l'IVA, abbiamo un tax gap, sarebbe a dire sì, quello che dovremmo incassare, quello che incassiamo. La differenza è stata stimata in 40 miliardi, quindi sì, non esattamente 2 lire. Allora, c'è un piano di contrasto tra cui se legge a pagina 2 anche un'estensione massiccia della fatturazione elettronica. Chissà se dovremo passare tutti alla fatturazione elettronica, stiamo anche sondando con Bruxelles se questa cosa è effettivamente praticabile. Oh, poi naturalmente Casa 24, ci sono i dati sull'andamento dei prezzi del mercato, specialmente nelle piccole città dove i prezzi sono ancora in calo. Molto interessante questa cosa, ti invito a meditarci sopra. Poi parliamo di molte altre cose, ma soprattutto anche della rottamazione delle cartelle. Hai lì qualche cartella da rottamare? No, guarda, no. Nel disordine lì della tua scrivania con tutti i giornali sparsi. Guarda bene, perché sappi che la proroga ci sarà al 21 aprile per presentare la richiesta di rottamazione, ma non c'è ancora Com'è possibile questo mistero? È possibile. Te lo spieghiamo sulle pagine di Norme e Tributi, che tu leggerai come ti conviene. Religiosamente. Bravo, vedo che sei attento. Allora, non perderti però la lettura scrupolosa, cioè scrupolosamente leggerai le pagine di Imprese e Territori, perché ad esempio apprenderai, oltre alla ricerca di cui facevi cenno poc'anzi, poi con le considerazioni di Briatore, ecco, oltre a quella ricerca vedrai anche come la TAP, sai il gasdotto TAP, hai presente? C'è, questo no, che dovremmo costruire, arrivare in Puglia, ecco, si è fermata un'altra volta, e si sono fermati un'altra volta i lavori, questa volta è stato il prefetto, lo riferiamo, lo commenta tra l'altro anche Paolo Bricco nel suo articolo che comincia in prima pagina sul Sole 24 Ore. Poi ti segnalo ancora due cosucce. L'una, i dirigenti della pubblica amministrazione sono stati interpellati da un sondaggio: quanto pensate che influirà la riforma Madia per migliorare le cose tra pubblica amministrazione e cittadini? Ebbene, solo secondo il 5% la cosa potrebbe dare un qualche effetto. Vabbè, non è un dato confortante, speriamo che si sbaglino, come dire. E infine, in Norme e Tributi, una sentenza importante dal Tribunale di Roma: due ex troppo litigiosi, e allora se litigate troppo non vi mettete d'accordo su come educare la figlia, va bene, il Tribunale nomina un tutore, deciderà il tutore per le grandi decisioni che riguardano la figlia di questi due ex troppo litigiosi. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, ci vediamo domenica. Certo. E i biglietti me li sono comprati perché ovviamente... Bravo, bravo. Lo so, non vengo per vedere te, come sai, ma questo è una vicenda che riguarda soprattutto noi due. Caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Milan, è il caparap dell'informazione! Mitico, questo mi ricordo che mi fece, se riconosco ancora le voci lavorando in radio, mi fece un grande saluto per il giorno in cui io sono andato in ferie, se non sbaglio, no, con grande trasporto. Allora, signori, c'è un allarme lanciato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, riguarda la scuola italiana. Troppe insegnanti donna. Questo è l'allarme lanciato dall'OCSE sulla scuola. Salari bassi, così si è estinta la figura del professore. E tra l'altro, oltre che molte donne, anche di età abbastanza avanzata, con tutto rispetto, insomma, nei licei italiani il 70% dei docenti ha più di 50 anni. In Italia 4 insegnanti su 5 sono donne, leggo dall'articolo di Francesca Angeli sul Giornale, a pagina 15, e cioè l'83% del corpo docente. Nel mondo la percentuale è il 68%, che resta comunque alta. La femminilizzazione della professione docente può condizionare la preparazione degli studenti? Questo si è chiesto l'OCSE nel fornire il quadro di un sistema educativo mondiale dove la presenza delle insegnanti donna è tanto predominante da creare un vero e proprio squilibrio di genere. Uno squilibrio che riguarda tutti i paesi, ma con alcuni picchi significativi, come in Italia, dove il professore maschio è praticamente estinto nei primi anni del ciclo educativo. Nella scuola d'infanzia i maschi sono lo 0,7%. Una percentuale che sale al 3,6% nella scuola primaria e ancora di più alle medie, dove comunque gli uomini sono solo il 22% del totale. E l'OCSE si è interrogato su questo. Io invece mi interrogo da due giorni, l'ho fatto anche provocatoriamente su Twitter dicendo: ma stiamo tornando, perché non torniamo direttamente al Medioevo? Che cosa mi ha fatto fare questa considerazione? Beh, quello che è successo in Texas, dove è passato il Bill 25, una legge. La legge nel Senato del Texas riguarda l'aborto. Una legge, anzi sono due le leggi, ma una soprattutto. Ecco qui, il Manifesto, pagina 9, ma ne parla anche La Stampa, pagina 18. Leggo da Geraldina Colotti sul Manifesto: è legge in Texas, udite udite, I medici possono mentire alle donne sul feto malato. In nome di un insindacabile diritto alla vita, il medico può anche mentire ai genitori di un nascituro in caso il feto sia affetto da patologie e malformazioni, il tutto per evitare che possa essere presa in considerazione l'ipotesi di un'interruzione di gravidanza. Quanto detto è legge, almeno lo è in Texas, protagonista di una nuova offensiva antiaborto in funzione del quale il Senato statale ha approvato a larga maggioranza il Bill 25. Questo l'ho letto dall'inizio dell'articolo di Francesco Semprini sulla Stampa a pagina 18. Tutti i passi in avanti, le donne hanno il diritto di scegliere, le battaglie, tutte annullate da questa legge. Come ho detto, torniamo direttamente al Medioevo e facciamo prima. Facciamo una bella legge, è reistituito il Medioevo, punto. Sono quattro parole semplici, secche, da approvare e va bene così. Allora, quanto manca? Un minuto? Allora, siamo al Corriere della Sera che lancia questo allarme a 60 giorni dal G7. Lo fa Marco Galluzzo a pagina 11. Il maggiore appalto del G7 a Taormina, G7 che ospiterà Donald Trump, capi di Stato e di governo di tantissimi paesi, a 60 giorni l'appalto più importante, che è quello che riguarda il controllo e la gestione del sistema di ingressi attraverso i badge e i relativi chip elettronici, è bloccato al Consiglio di Stato per i classici ricorsi, controricorsi. Ha vinto con un ribasso del 38% un'azienda, Schema 31 di Roma. Un'altra azienda, la After, anche lei di Roma, si è sentita lesa, ha fatto ricorso al TAR, ha perso, non si è arresa, ha fatto il passo successivo e tutto è bloccato al Consiglio di Stato. Con tutto, la burocrazia, per carità, diritti di difesa, cioè la burocrazia italiana, 60 giorni al G7 di Taormina, gli appalti, tra l'altro uno, quello per controllare i badge, immaginate i livelli di sicurezza che ci dovrebbero e ci dovranno essere a Taormina, è tutto bloccato, mancano 2 mesi. Bene, dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, basta, ma devo leggere tutti gli articoli dedicati al Milan, alla vendita ai cinesi, anche qua su Libero, c'è un quinto di caparra, adesso siamo a un quinto di caparra, basta. Ma chi se ne frega!